Capitolo 42. Se l'opinione di Elizabeth sulla felicità coniugale e sulle gioie domestiche fosse derivata soltanto dalla sua famiglia, non avrebbe potuto trarne un quadro molto allettante. Suo padre, affascinato dalla gioventù e dalla bellezza e da quell'apparenza di buon carattere che la gioventù e la bellezza per solito conferiscono, aveva sposato una donna di cui lo scarso comprendonio e lo spirito meschino avevano fin dai primissimi tempi della loro unione spento in lui ogni vero affetto per lei. Il rispetto, la stima, la fiducia erano svaniti per sempre e tutte le prospettive di felicità domestiche ne erano andate a catafascio. Ma il signor Bennet non era tipo da ricercare conforto alla delusione causatagli dalla sua stessa imprudenza in qualcuno di quei piaceri che troppo spesso consolano gli sventurati della loro follia o della loro colpa. Amava i libri e la campagna. E da questa passione erano derivati i suoi massimi godimenti. Verso la moglie non si sentiva per nulla in debito se non per quel contributo allo spasso che l'ignoranza e la vacuità di lei gli avevano apportato. Non è questa la specie di soddisfazione per cui un uomo si augurerebbe di solito di essere grato alla sua consorte, ma ove manchino altre possibilità di divertimento, il vero filosofo trarrà beneficio da quelle che gli sono offerte. Tuttavia, Elisabetta non era mai stata cieca dinanzi allo scorretto contegno di suo padre come marito. L'aveva sempre constatato con pena, eppure, rispettosa del suo ingegno e grata per il trattamento affettuoso che riservava a lei, si sforzava di dimenticare ciò che non poteva passare inosservato e di bandire dai suoi pensieri quell'offesa al rispetto coniugale e al decoro che, esponendo come gli faceva la moglie al disprezzo delle proprie figliole, risultava in sommo grado deplorevole. Mai, come ora, aveva sentito con tanta forza gli svantaggi che dovevano ricadere sulla prole di un'unione malassortita, né mai si era resa conto così pienamente dei mali derivanti da un tale cattivo impiego di capacità. Capacità che, ben adoperate, avrebbero quantomeno potuto salvare la reputazione delle figlie, anche se insufficiente ad allargare le vedute della moglie. Dopo essersi rallegrata della partenza di Wickham, Elizabeth non trovò quasi altro motivo di soddisfazione per la lontananza del reggimento. I ritrovi fuori di casa erano meno variati di prima e a casa aveva una mamma e una sorella che con le loro eterne lamentele, per la noia di tutto quanto le circondava, riuscivano a portare una vera nota di malinconia nell'ambiente familiare. Vero era che Catherine avrebbe forse col tempo riacquistato la sua dose naturale di buonsenso, poiché i perturbatori della sua mente si erano allontanati. D'altra parte, l'altra sua sorella, la cui indole dava luogo a più serie apprensioni, si sarebbe con ogni probabilità indurita nella leggerezza e nella sfacciataggine, grazie a una situazione doppiamente pericolosa come quella fornita da un luogo di bagni e da un campo militare. Nel complesso, dunque, ella fece una scoperta che già qualche volta era stata fatta. Un avvenimento atteso con impaziente desiderio non reca, verificandosi, tutta la soddisfazione che ce ne siamo ripromessi. Fu perciò necessario stabilire qualche altra epoca per l'inizio della vera felicità, aver qualche altro punto a cui far convergere desideri e speranze, e tornando a godere le gioie dell'anticipazione, consolarsi del presente e prepararsi a una nuova delusione. Il viaggio ai laghi divenne ora l'oggetto dei suoi pensieri più lieti, la miglior consolazione per tutte le ore spiacevoli che lo scontento della madre di Catherine rendeva inevitabili. E se soltanto avesse potuto includere nel progetto la presenza di Jane, esso sarebbe stato perfetto sotto ogni punto di vista. Ma è una fortuna, pensava, che mi rimanga qualche cosa da desiderare. Se il nostro piano fosse completo, avrei da aspettarmi di certo una delusione. Così invece, portando con me una costante fonte di rammarico per l'assenza di mia sorella, posso ragionevolmente sperare di vedere avverate tutte le mie speranze di gioia. Un progetto che promette delizie in ogni suo aspetto non può mai andare a buon fine, e una delusione totale può evitarsi soltanto a prezzo di qualche piccolo dispiacere personale. Partendo, Lydia aveva promesso di scrivere molto sovente e con gran dovizia di particolari alla madre e a Catherine. Ma le sue lettere, sempre molto attese, erano invece brevissime. Quelle alla mamma contenevano poche altre notizie oltre i soliti pettegolezzi. Erano appena tornate dalla libreria, dove erano state scortate dai tali e tali ufficiali. Aveva visto ornamenti così belli da farla diventare pazza, addirittura. Aveva un vestito nuovo, un nuovo ombrellino che avrebbe desiderato descrivere più diffusamente, ma doveva chiudere in grandissima fretta perché la signora Forster la chiamava per andare al campo. Dalla sua corrispondenza con la sorella si poteva saperne ancor meno, poiché le lettere a Catherine, sebbene piuttosto lunghette, erano troppo piene di parole sottolineate per essere lette in pubblico. Dopo le prime 2 o 3 settimane da quella partenza, la salute, il buon umore e l'allegria cominciarono a ricomparire a Longbourn. Tutto sembrava più gaio. Le famiglie che avevano passato l'inverno in città fecero il ritorno e con gli abiti estivi tornarono fuori anche gli impegni dell'estate. La signora Bennet riprese la sua consueta querula serenità e verso la metà di giugno Catherine si era abbastanza ristabilita da essere capace di entrare a Meryton senza versare lacrime. Avvenimento questo foriero di così liete promesse da far sperare ad Elizabeth che per Natale la sorella sarebbe tornata tanto sopportabilmente ragionevole da non nominare gli ufficiali più di una volta al giorno, a meno che per qualche crudele o maligna disposizione del Ministero della Guerra un altro reggimento non avesse preso stanza a Meryton. Il periodo fissato per l'inizio del loro viaggio nel settentrione si andava ormai avvicinando rapidamente e vi mancavano soltanto 2 settimane. Quando giunse una lettera della signora Gardiner che ne differiva la data di partenza e ne abbreviava l'itinerario. Ragioni di affari avrebbero impedito al signor Gardiner di mettersi in viaggio prima della seconda quindicina di luglio e lo avrebbero costretto ad essere di ritorno a Londra entro un mese. E siccome questo lasciava loro troppo poco tempo per spingersi tanto lontano e vedere tutto quello che si erano proposti, o quantomeno vederlo con tutta la calma e i comodi del loro piano, erano costretti a rinunciare ai laghi e a sostituirvi un giro più ridotto. Secondo l'attuale progetto, non dovevano andare più in là del Derbyshire. C'era in quella regione abbastanza da vedere per riempire la maggior parte delle loro 3 settimane e per la signora Gardiner essa presentava un'attrattiva particolare. La cittadina in cui aveva precedentemente passato alcuni anni della sua vita, in cui ora si sarebbero trattenuti qualche giorno, era forse non meno oggetto della sua curiosità di tutte le celebrate bellezze di Matlock, Chatsworth, Dovedale o il Peak. Elizabeth ne provò una delusione grandissima. Ormai aveva messo tutto il suo cuore nel desiderio dei laghi e ancora le sembrava che il tempo sarebbe bastato. Ma le toccava essere soddisfatta lo stesso ed era proprio della sua natura di essere contenta. Così l'orizzonte tornò presto sereno. Molti pensieri erano connessi col nome di Derbyshire. Le era impossibile vedere quella parola senza pensare a Pemberley e al suo proprietario. Ma potrò certo, si disse, entrarne la sua contea impunemente e sottrarle qualche pietrina di marcassite senza che egli si accorga di me. L'attesa veniva ora ad essere doppiamente prolungata. 4 settimane dovevano passare prima dell'arrivo degli zii, eppure passarono e finalmente i signori Gardiner con i loro 4 figlioli fecero la loro comparsa a Longbourn. I bambini, 2 fanciullette di 6 e di 8 anni e 2 ragazzetti minori, dovevano venire affidate alla cura particolare della cugina Jane, la beniamina di tutti, il giudizio e il dolce temperamento della quale la rendevano per l'appunto atta ad occuparsi di loro per ogni riguardo, l'insegnamento, il gioco e le tenerezze. I Gardiner sostarono a Longbourn soltanto una notte. La mattina dopo partirono con Elizabeth in cerca di svaghi e di novità. Un godimento era allora assicurato, quello dell'affiatamento tra compagni di viaggio, affiatamento che comprendeva salute e indole adatte a sopportare i disagi, un'allegria capace di aumentare ogni piacere e infine affetto e intelligenza di cui farsi dona vicenda se avessero dovuto soffrire qualche delusione esterna. Non è compito di quest'opera il fare una descrizione del Derbyshire, né di alcuno di quei luoghi degni di nota attraverso i quali si svolse il loro itinerario in quella regione. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, eccetera, sono già abbastanza conosciute. Tutto ciò che per ora ci interessa è una piccola parte del Derbyshire. Alla volta di Lambton, la cittadina dove aveva precedentemente abitato la signora Gardiner e dove aveva da poco saputo che ancora rimaneva qualche sua conoscenza, essi volsero i loro passi dopo aver veduto tutte le cose più notevoli della regione. E a 5 miglia da Lambton era sita Pemberley, come Elizabeth venne a sapere dalla zia. Non che si trovasse proprio sulla loro strada, ma non ne distava che un paio di miglia. Discutendo la sera l'itinerario dell'indomani, la signora Gardiner espresse il desiderio di rivedere quei luoghi. Il marito si dichiarò d'accordo e venne allora richiesta l'approvazione di Elizabeth. Tesoroccio, non ti piacerebbe visitare un posto di cui hai tanto sentito parlare? Le domandò alla zia. Un luogo per di più che ha così stretta relazione con tanti tuoi conoscenti. Wickham ci ha passato tutta la sua giovinezza, sai? Elisabeth si sentì angustiata, non le pareva di non aver nulla a che fare con Pemberley e fu costretta a mostrare il suo scarso entusiasmo di visitarlo. Era stanca di grandi case, dovette confessare, dopo averne frequentate in così gran numero, non trovava più nessuna soddisfazione nei bei tappeti e nelle tende di raso. La signora Gardiner le diede apertamente della grulla. Se si trattasse semplicemente di un bel palazzo riccamente ammobiliato, non ne importerebbe nulla neppure a me. Ma sorge in un luogo meraviglioso. Pemberley è circondato da boschi che sono fra i più belli d'Inghilterra. Elizabeth non disse più parola, ma nel suo intimo non consentì. Le si presentò subito alla mente la possibilità di incontrarsi col signor Darcy mentre visitavano il luogo. Sarebbe stato terribile. Arrossì soltanto al pensiero e ritenne miglior partito parlare con franchezza alla zia piuttosto che correre quel rischio. Ma sorgevano obiezioni in merito e infine decise di ricorrere a questo mezzo come ultima risorsa, qualora le sue indagini private circa l'assenza della famiglia avessero dato risultato sfavorevole. Così la sera, ritiratasi in camera sua, domandò alla cameriera che specie di posto fosse Pemberley e come si chiamasse il proprietario e, non senza una certa inquietudine, se la famiglia vi si trovasse per passarvi l'estate. L'ultima domanda fu seguita da un graditissimo diniego, per cui, ormai allontanati i suoi timori, si sentì libera di provare a sua volta una gran curiosità di visitare il palazzo. E quando la mattina dopo si tornò sull'argomento e fu di nuovo interpellata, ella poté prontamente rispondere con la dovuta aria di indifferenza, che per conto suo non aveva nulla in contrario al progetto. Si avviarono perciò alla volta di Pemberley. Capitolo 43. Durante il viaggio in carrozza, Elizabeth stette a spiare con un certo turbamento il primo apparire dei boschi di Pemberley e quando infine furono in vista del castello, il suo animo fu pervaso da una grande agitazione. Il parco era immenso e comprendeva una gran varietà di terreni. Vi penetrarono da uno dei punti più bassi e per un po' percorsero uno splendido bosco di vasta estensione. La mente di Elizabeth era occupata da troppi pensieri per consentirle di conversare. Vedeva però e ammirava ogni punto degno di nota, ogni panorama. Continuarono a risalire il parco per mezzo miglio e si trovarono sulla sommità di un'altura dove il bosco finiva. Qui l'occhio era subito colpito dalla vista del palazzo di Pemberley, sito sul lato opposto della valle nella quale la strada svoltava bruscamente. Era un grandioso, bellissimo edificio in pietra che si ergeva maestoso su un terrapieno e a cui faceva da sfondo una catena di colline elevate e boscose. Un corso d'acqua, già per natura abbastanza ricco, si gonfiava scorrendo dinanzi alla casa, senza tuttavia apparire artificioso. Le rive non erano né artificiali né adorne di falsi elementi decorativi. Elisabeth era incantata. Non aveva mai visto un luogo più favorito dalla natura o dove la bellezza naturale fosse stata meno falsata dal cattivo gusto. Tutti espressero calorosamente la loro ammirazione e in quel momento ella sentì che essere padrona di Pemberley avrebbe significato qualche cosa. Discesero il colle, attraversarono il ponte e la carrozza si fermò dinanzi alla porta. Mentre Elizabeth esaminava più di vicino l'aspetto dell'edificio, tutti i suoi timori di incontrarne il proprietario la riassalirono. Aveva timore che la cameriera si fosse sbagliata. Chiesto di visitare il palazzo, furono introdotti nel vestibolo e mentre aspettavano la custode, Elizabeth ebbe tutto il tempo di riflettere sulla sua presenza in quel luogo. Venne la custode, una donnetta anziana dall'aria per bene, molto meno distinta e più cordiale di quanto se l'era immaginata. La seguirono in sala da pranzo. Era una grande sala, armonica nelle proporzioni, ammobiliata con gusto. Elisabeth, dopo una rapida occhiata, andò a una delle finestre ad ammirare la vista. La collina colorata di boschi dalla quale erano discesi, a vederla così di lontano, sembrava più ripida ed era bellissima. Il terreno era tutto ben distribuito. Ed ella guardò con diletto il paesaggio, il fiume, gli alberi sparsi sulle sue rive, lo snodarsi della valle fin dove si poteva seguirla con lo sguardo. Passando nelle altre stanze, il panorama si spostava, ma da ogni finestra si potevano ammirare nuove bellezze. Le stanze erano altissime ed eleganti e il mobilio s'addiceva alla ricchezza del proprietario. Elizabeth però si accorse e fu ammirata dal buon gusto di lui che l'arredamento non era né sontuoso né inutilmente raffinato. Meno fasto, insomma, e maggiore vera eleganza che nell'arredamento di Rosings. E di questo luogo, la pensò, avrei potuto essere padrona. Queste sale potrebbero essermi ormai familiari e invece di guardarle con gli occhi di un'estranea, potrei goderne come di cose mie e accogliervi come ospiti i miei zii. Ma no, ciò non avrebbe mai potuto essere. Gli zii sarebbero stati perduti per me. Non mi sarebbe stato permesso di invitarli. Fu una riflessione opportuna. La salvò da qualche cosa che assomigliava al rimpianto. Si struggeva dalla voglia di domandare alla custode se il suo padrone fosse realmente assente, ma non aveva il coraggio. Finalmente però la domanda venne formulata dallo zio ed ella si volse turbata dall'altra parte, mentre la signora Reynolds gli rispondeva affermativamente, soggiungendo: «Ma lo si aspetta per domani, con una gran comitiva di amici». Come si rallegrò Elizabeth che il loro viaggio non fosse stato per nessun motivo rimandato di un giorno. In quel momento la zia la chiamò per farle osservare un quadro. Ella si avvicinò e vide l'immagine del signor Wickham appesa in mezzo a parecchie altre miniature alla parete sopra il camino. La zia le domandò sorridendo se le piacesse. La custode si fece avanti e spiegò che era il ritratto di un giovane, figlio del maggiordomo del suo defunto padrone, e da lui educato a sue spese. Ora si è arruolato nell'esercito, ma ho timore che sia diventato un caposcarico. La signora Gardiner guardò la nipote con un sorriso, ma Elizabeth non poté ricambiarglielo. E quello fece la signora Reynolds, indicando un'altra miniatura. Quello è il mio padrone. Gli assomiglia molto. È stata eseguita nello stesso periodo dell'altra, pressappoco 8 anni or sono. Ho inteso molto parlare della bellezza del suo padrone. È un bel viso davvero. Ma tu, Lizzy, tu sei in grado di dirci se gli assomiglia o no? A questa insinuazione, che rivelava come Elizabeth conoscesse il suo padrone, la deferenza della signora Reynolds per lei parve aumentare. La signorina conosce il signor Darcy? Elisabetta arrossì e rispose: Un poco. E non le pare che sia un gran bell'uomo, signorina? Sì, molto bello. Quanto a me, sono certa di non conoscerne un altro bello come lui, ma nella galleria del piano di sopra potranno ammirare un suo ritratto più grande e migliore di questo. Questa era la stanza preferita dal mio povero padrone e queste miniature sono rimaste proprio tali e quali come allora. Gli erano molto care. Allora Elizabeth comprese perché si trovasse fra quelle anche il ritratto di Wickham. Poi la signora Reynolds richiamò la loro attenzione sul ritratto della signorina Darcy, fattole quando aveva solo 8 anni. E la signorina Darcy è bella come suo fratello? Si informò il signor Gardiner. Oh sì! È la più bella signorina che si sia mai vista. È così istruita. Suona e canta tutta la giornata. Nell'altra sala c'è un pianoforte nuovo appena fatto arrivare per lei. È un regalo del mio padrone. Domani verrà qui, anche lei con lui. Con i suoi modi affabili e cordiali, il signor Gardiner incoraggiava la sua comunicativa rivolgendo le domande e osservazioni. La signora Reynolds, fosse per orgoglio o per attaccamento, provava evidentemente una gran soddisfazione a parlare del suo padrone e della sorella. Sta molto a Pemberley durante l'anno il suo padrone? Non tanto quanto potrei augurarmelo, signore, ma nel complesso direi che la metà del suo tempo la passa qui e la signorina Darcy ci viene sempre per i mesi d'estate, tranne quando va a Ramsgate, pensò Elizabeth. Se suo padrone si sposasse, lo vedrebbe di più. Sì, signore, ma questo non so proprio quando potrà avvenire. Non conosco nessuna che sia alla sua altezza. I signori Gardiner sorrisero ed Elisabetta non seppe trattenersi dall'osservare. Gli fa molto onore, senza dubbio, che lei pensi così. Non dico niente di più della verità, quello che direbbe chiunque lo conoscesse. Elisabetta pensò che stesse un pochino esagerando e con stupore crescente ascoltò la custode soggiungere: Non ho mai avuto da lui una parola dura in tutta la mia vita. E lo conosco da quando aveva 4 anni. Di tutti, questo era l'elogio più inatteso, più contrastante con le sue idee. Aveva sempre fermamente creduto che Darcy non avesse un carattere facile. Il discorso destava tutta la sua attenzione. Aveva una gran voglia di avere altri particolari e fu grata allo zio che commentò: Sono poche le persone di cui si possa dire altrettanto. È ben fortunata lei ad avere un padrone così. Sì, signore, lo sono. Se dovessi fare il giro del mondo, non ne potrei trovare uno migliore. Del resto, ho sempre constatato che quelli che hanno una buona indole da bambini la mantengono fatti adulti. Lui è sempre stato il ragazzo dalla natura più affettuosa, dal cuore più generoso del mondo. Elizabeth quasi la guardava a bocca aperta. Ma può essere questo il signor Darcy? Pensava. Suo padre era un uomo d'oro. Sì, signora, davvero. E suo figlio sarà tale e quale lui, ugualmente affabile con la povera gente. Elisabetta ascoltava, stupiva, dubitava, impaziente di avere altre notizie. Non c'era argomento a cui la signorina Reynolds potesse interessarla di più. Ella spiegò i soggetti dei quadri, indicò le dimensioni delle sale, il prezzo dei mobili, tutto invano. Il signor Gardiner, piuttosto divertito da quella specie di orgoglio di casato al quale attribuiva gli eccessivi elogi che la tesseva del padrone, la ricondusse poco dopo sull'argomento. Ed ella insisté calorosamente sui suoi molti meriti mentre tutti insieme salivano il vasto scalone. È il miglior proprietario terriero, il miglior padrone che sia mai esistito. Non assomiglia a quella gioventù senza testa d'oggigiorno che non pensa ad altri che a sé. Non c'è neppure uno dei suoi fittavoli o dei suoi domestici che non vi dirà del bene sul suo conto. Qualcuno lo definisce superbo, ma a me non risulta proprio nulla di codesta superbia. Secondo me lo dicono soltanto perché lui non sta a fare tante chiacchiere come gli altri giovanotti. In che buona luce lo mette tutto ciò, pensò Elizabeth. Questo bel quadro di lui, disse sottovoce la zia mentre procedevano. Non si accorda del tutto col suo contegno verso il nostro povero amico. Potremmo esserci ingannati. Non è molto probabile, la nostra fonte era troppo sicura. Raggiunta la spaziosa loggia del piano superiore, furono introdotti in un graziosissimo salottino, di recente arredato con maggiore vaporosa eleganza degli appartamenti del piano inferiore. Venne loro spiegato che la stanza era stata appena terminata per far piacere alla signorina Darcy, che aveva mostrato per essa una predilezione particolare l'ultima volta che era stata a Pemberley. È certamente un ottimo fratello, disse Elizabeth dirigendosi verso una delle finestre. La signora Reynolds si figurava la gioia della signorina quando fosse entrata nella stanza. È il suo sistema. Tutto quello che può far piacere a sua sorella deve essere sempre eseguito immediatamente. Non c'è nulla che non farebbe per lei. La galleria di quadri e due o tre delle principali stanze da letto erano tutto ciò che rimaneva ormai da visitare. Vi erano molti bei dipinti nella prima, ma Elizabeth di arte non si intendeva affatto e da quelli simili agli altri già veduti nelle sale inferiori aveva distolto volentieri lo sguardo per ammirare certi disegni della signorina Darcy, eseguiti a pastello, di soggetto generalmente più interessante e anche più accessibile. Vi erano nella galleria molti ritratti di famiglia, ma poco atti a fermare l'attenzione di un estraneo. Elizabeth proseguì, in cerca dell'unico viso le cui fattezze potevano essere le note. Finalmente quel viso la fece sostare ed ella rimase in contemplazione di un ritratto del signor Darcy somigliantissimo, con un sorriso come ella ricordava di averli visto talvolta quando sorrideva lei. Si fermò qualche minuto davanti a quel quadro, considerandolo intensamente, e vi ritornò prima di lasciare la galleria. La signora Reynolds spiegò che il ritratto era stato eseguito mentre viveva ancora il padre del suo attuale padrone. Nell'animo di Elizabeth albergava certamente in quell'istante un sentimento più benevolo verso l'originale di quel che avesse mai provato nel pieno della loro conoscenza. L'elogio fattone dalla signora Reynolds non era da disprezzarsi. Quale lode vale di più della lode di un servitore intelligente? Rifletté come la felicità di tanti individui fosse nelle sue mani, di fratello, di possidente, di padrone. Quanta felicità e quanta sofferenza era in suo potere di distribuire. Quanto bene e quanto male poteva venire operato da lui. Tutto quanto era stato riferito dalla custode era favorevole al suo carattere. E mentre sostava davanti alla tela su cui egli era raffigurato, con gli occhi fissi su di lei, ella pensò al suo affetto con un sentimento di gratitudine più profondo che mai. Ne rievocò il calore e ne attenuò la durezza di espressione. Quando ebbero visitata tutta la parte del palazzo aperta al pubblico, ritornarono da basso e lì, accomiatatasi dalla custode, furono affidate alle cure del giardiniere, che mosse il loro incontro sulla porta di casa. Nell'attraversare il prato diretto al fiume, Elizabeth si volse indietro a guardare ancora una volta. Anche lo zio e la zia si fermarono e mentre il primo stava facendo congetture circa la data di costruzione dell'edificio, il suo proprietario in persona comparve tutto a un tratto sul viale che conduceva dietro il palazzo, alle scuderie. Si trovarono a una ventina di yard una dall'altra e il suo apparire era stato così improvviso che era ormai impossibile evitare il suo sguardo. Subito i loro occhi si incontrarono e a ciascuno il viso vampò del più intenso rossore. Egli ebbe un vero e proprio soprassalto e per un attimo sembrò paralizzato dalla sorpresa, ma ridivenuto presto padrone di sé, avanzò verso il gruppo e parlò ad Elizabeth, se non in tono di calma assoluta, quantomeno di perfetta cortesia.